Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caro Maurizio, siamo qua anche stasera, tu sei qua già da un po' ormai. Sì, dalle ore 21 all'incirca, ma è bello. Secondo me, io sono molto contento quando continuiamo fino a mezzanotte. Tu ci sguazzi su queste cose. Ci sguazzo, esattamente. Sergio Bortolami con voi, prima c'era Gilles Facchinelli, adesso ci sono io e ovviamente sia prima sia adesso, come avete capito, c'è Maurizio Calzavara per la conduzione, quella proprio... tecnica, cioè, quella del mercoledì, quella classica, insomma, per i nostri appuntamenti live nel corso della settimana qui a Blu Radio Veneto. Si va fino alla mezzanotte questa sera con i Nova Lisi, dico bene, sì? Sì, penso si pronuncia così. Sì. Al confine tra la provincia di Treviso e quella di Pordenone. Esatto. Maurizio, a esattamente. Te. Buonasera Nova Lisi, avete fatto buon viaggio. Buonasera. Sì. Vi vedo tosti, vi vedo caldi. Belli carichi. Pronti. Caldi. Assolutamente. Caldi, perché qua è caldo. Sì, ma è sempre caldo durante tutto l'anno qua dentro. Perché la musica ci fa caldo praticamente. Sì. Ci scalda. Ci scalda. Parliamo con... Adesso vi presentate. Chitarrista. Cantante, chitarrista, Davide Lisotto. Nostro batterista. Ciao a tutti. Io l'ho chiamato Bonzo perché ha un sacco di cose. Bonzo nel senso positivo, John Bonham dei Led Zeppelin. Enrico alla batteria. E nostro e Michele al basso. New Entry, giovanissimo, 20 anni. Sì, Pischello. Al basso e anche al tastiere. al basso e al synth. Sì. Anche al basso e anche al synth, ragazzi. Sì, al basso e sì, al synth. Ventenni, incredibile. Com'è nato il progetto, caro? Ma il progetto nasce nel 2009. Dall'idea tua e del batterista? Sì, no, in realtà nasce da un progetto precedente, dalle ceneri di un progetto precedente. Dove comunque suonavamo tutti e tre, c'era un quarto componente che non poi era per fratello motivi... vostro. No. Non c'era nessun grado di parentela. Benissimo. Però c'è niente di male. No, per carità. Ma niente, nasce dalle ceneri di questo gruppo. Poi sto secondo chitarrista, per motivi personali, se n'è andato e abbiamo deciso di rimanere in tre e dare il nome Nova Lisi alla band. Questo impulso Nova Lisi alla band, questo progetto nato, si è sviluppato e avete deciso di rimanere esatto, in tre. Trio è un'ottima cosa. Eravamo abituati. Il clima era un in tre, mi esatto, pare. Siamo stati abituati a suonare in quattro, però poi abbiamo visto che comunque le cose giravano lo stesso. Beh, anche in basso tre. C'è, la batteria c'è, la chitarra elettrica chiaro, c'è, chiaro, meglio di così. Sì. La sezione ritmica. Esatto, la sezione ritmica è ok. Poi basso e bassista che sono anche le tastiere, è un in più, quindi... Vi svelo anche un altro segreto, il batterista è anche chitarrista. Perfetto, sì. Perché non hai portato la chitarra stasera? Perché non ci stava. Non ci stava. Motivo di trasporto. Benissimo, quindi il trio è l'effetto del rock, nasce dal trio, c'è poco da fare. Sì. Basso, batteria e chitarra è l'emblema del rock. Sì. Il rock vostro è un po' particolare, sì, rock sì, ma un po' di tastiere anche. Sì, abbiamo deciso... voce a Michele, allora. Sì, Michele c'è un po' di elettronica nel disco in quasi sempre tutti i pezzi. Di veduta è corretta, però non elettronica così prospiciente, elettronica sì, esatto, contenuta diciamo. Contenuta, ecco esattamente. Sì, non viene usata tantissimo, però in quasi tutti i pezzi, qualche parte col sintetizzatore, con qualche tastiera, o anche col Rhodes abbiamo registrato qualcosa. Sì, esattamente. È un disco nuovo, vero e proprio, un disco avete inciso, c'è poco da fare. È uscito a fine ottobre di quest'anno. L'avevamo registrato dell'anno scorso. Ma insomma, ci siamo, cioè, qualche mese è passato. Ma dai. Anche la dote di prevedere il futuro. Non ho capito. Dimmi il prossimo uscirà. La dote di prevedere il futuro. Ah, è vero. Bene. Che ne faremo uscire un altro ottobre. È per questo. Bello, vuol dire che siete. Continuate a scrivere. Speriamo, cioè, quello sì. Sì, il disco è uscito a fine ottobre dell'anno scorso. L'avevamo registrato al Mushroom Studio di Frisanco. Vicino a Pordenone nell'inverno precedente. Siamo rimasti con questo disco in mano diciamo circa 7 mesi e poi a fine ottobre finalmente l'abbiamo fatto uscire. Beh sì, però l'avete fatto uscire, questo è importante, è fondamentale. Sì. Com'è stata la produzione? Vostra autogestita la produzione? No, la produzione, allora, diciamo che i pezzi all'origine li abbiamo scritti tutti noi, poi però abbiamo voluto affidarci a un produttore artistico che abbiamo cercato smanettando in internet. Ah, perfetto, sì. E così, dopo... i produttori artistici si trovano così, mi pare sì. Dopo centinaia di mail ci ha risposto questo Matteo Dainese, da Udine. Che non ha prodotto poco però, è bravo quello, Matteo, ha prodotto un sacco sì. di gente. Sì. È proprio dentro al sistema. Lui sì. Dentro al sistema. Che diciamo ha lavorato con noi 3 mesi in sala prove. dove, proprio da noi, veniva giù il fine settimana quando riusciva. E cosa fa un produttore, Enrico? Ma il produttore, diciamo che all'inizio ha ascoltato i nostri pezzi, poi si è un po' chiuso nel suo mondo, diciamo, e poi niente, abbiamo cominciato a lavorare insieme, ma riarrangiando i pezzi, sì, a livello fisico. Qui la chitarra potrebbe fare così, cioè metteva in discussione tutto quello che avevamo fatto, dalle linee vocali a questo fill di batteria, lo facciamo, proviamo a farlo così, cioè un disastro. Il suono è venuto bene, vuol dire che aveva ragione lui su certe cose. E non vi siete sentiti magari troppo cambiati rispetto? Ma forse con il... dopo, cioè subito no. Con il tempo, cioè, sì, forse un po'. L'abbiamo fatte nostre quasi subito le canzoni, però poi dopo 5-6 mesi più o meno abbiamo deciso, ma questi non sono proprio i veri Novalisi, perché da live poi riusciamo sia a riproporre come facciamo nel disco. Cari ascoltatori, voi non avete sentito, io ho sentito il batterista. La live proprio tenete bene, dava una certa energia. È un animale. Chi l'ha detto che è un animale? È un bel animale. Sì, è un bel animale. È un complimento. È un complimento. Allora, iniziamo ad aprire la finestra come di solito facciamo. Avete scelto la prima traccia da sentire del disco. Ti ricordi, Sergio, che traccia era? La traccia 4. Perfetto. Sì. La sentiamo subito e dopo ne parliamo oppure? No, la sentiamo subito e poi ne parliamo, sì, ok. Allora, questo è quello che rimane. Sì. Perfetto. Tutte le vecchie cose alle quali non mi sento più legato. Se avessi pensato con la mia testa, ti avrei lasciato tua via. Rimango distante, distante dalla linea di confine segnata dal filo spinato. Sono l'unica cosa che mi rimane. Passo verso il cielo, vedo scorrere gli anni bui, ti vedo correre. Spero di diventare un giorno qualcosa di migliore, qualcosa di migliore, anche se la solitudine mi sveglia la mattina. Sono l'unica cosa che rimane. Allora, primo assaggio per quanto riguarda i Nova Lisi qui con noi questa sera. Questa era quello che rimane, la traccia 4 del loro disco. Bella tosta, mi pare. Bel basso, ma io noto subito. Parliamo del basso, la New Entry, quello giovane. Diciamo che non è neanche proprio un basso, perché è stato registrato con un sintetizzatore, un Korg MS-20. Che bravo, hai detto anche ho fatto anche la pubblicità. Mi pare giusto, non ha bisogno, ma bene lo stesso. E no, niente. Durante la strofa sì, c'è questo bassone, durante il ritornello viene un po' spipolato il suono, ecco, sulle frequenze, in modo da renderlo un po' più bonus, fluido, forse, sì, fluido, particolare. Esattamente. Sì. Enrico, questa chitarra bella lisercica subito, mi è piaciuta, sai, lisercica perché a me viene in mente certe cose, un po', non prettamente anni 2003, un po' più indietro. Sì. Come mai? Decenni più indietro. Beh, sì, hai ragione, Sergio. Non volevo che lisergico caricassi. È un tuo vocabolo. Psichedelia. Sì. Esatto. Beh, Beh, comunque sì. I Nuovi Lisi hanno anche la psichedelia. Fa bene alla salute sempre, chiaro, secondo me. È uno, sì, un zero più ce n'è, meglio si sta. È giovane, ha detto una cosa giusta, il giovane. La New Entry, sì. Dimmi, Enrico. Davide. Davide, scusa. Se Enrico sei te. Dimmi, Davide. Niente, cioè, comunque l'accenno, ci sono vari accenni di psichedelia anche all'interno del nostro rock. Questo effetto con la chitarra elettrica, come l'hai fatta? L'idea? Ma l'idea, diciamo, è un delay, però diciamo che c'è in un canale va a un tempo, in un altro canale va un altro tempo. È una cosa che si usa spesso. E il suono comunque è molto. Abbiamo usato un riverbero a molla di quelli proprio degli anni 70. È rimasto calmo, no? Sì, su questa canzone Mi pare che sia su calmo. Questa canzone sì, esattamente. Questa, diciamo, è la ballad del disco, ballad, sì. Abbiamo tenuto quelle calme da far ascoltare, sì. Quelle piuttosto le facciamo qua live. Mi pare giusto che sia così. No, continua, scusami. Sì. Ti avevo interrotto. No, niente, appunto questa qua era la balla, diciamo, del si parlava, ma l'idea di si dividere parlava, come si usava una volta, okay, da una cassa all'altra. Niente, diciamo che l'idea è venuta a chi ci ha registrato il disco, che è il fonico, praticamente. Sì, esatto, che è anche il produttore o no? No, è il fonico. No, è il fonico, che è una banda seria. Voi avete il produttore, il fonico, una band, sì, seria. È stato il fonico quando abbiamo registrato quel disco. Esatto, diciamo. Che comunque il fonico penso sia conosciuto perché è Enrico Berto che suona con i Sic Tamburo. Sì, sì. Quindi è conosciuto. Sì, sì. Esatto. Sì. Niente, lui ha questo studio super vintage, nel senso che ha proprio un banco, un NIV di quelli degli anni, penso siano anni 60. Bello, analogico. Tutto analogico. E niente, lui aveva questo disastro di effetti molto retro, soprattutto per le chitarre. Lui è prima di tutto chitarrista. E quindi niente, ho voluto provare anch'io questi effetti e mi sono innamorato e quindi li ho usati. Anche io e Sergio siamo stati soddisfatti, vero Sergio, di questo suono, sì. Decisamente soddisfatti, bello, interessante. Ci diciamo che il risultato della registrazione è molto caldo, non sono quei dischi che pompano, avevano, esatto, non è molto pompato il disco, ha molto respiro, ecco. E quando tu dici vintage, questo studio vintage è già una garanzia, sì, secondo me, sì, sì, sì, il non pompare le cose. Esatto. Ma poi di pompare adesso stiamo a suonare, chiaramente sono 22:35 e abbiamo già provato prima, abbiamo avuto quei 20 minuti accademici, esatto, anche noi per provare. Chiaro. Adesso siamo in pista, e cosa suoniamo adesso? Facciamo Surf su sangue. Perfetto. Proviamo. Ok. Colpa mia, ostile e indegna, l'emozione sensazione che provo quando mi ascolto dentro. Fiumi di sangue bagnano lo spazio scavato dalla forza di quello che non sono riuscito a dire. E non mi curo delle cose che potrebbero appartenermi, ma non me ne frega, resto senza niente addosso. Queste onde si alzano per farmi male. Queste onde non servono per fare surf. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Avete sentito Gary Scott? Ci siamo ripresi un secondo, Enrico ha spaccato tutto quanto, è una roba incredibile. Ci siamo ripresi leggermente un qualche secondo. In caso un pezzo durissimo questo qua. Eh sì, uno dei più duretti. Tosti, molto sì, tosti. Sì, sì, sì. Come mai così duro? Per antonomasia oppure perché dal vivo bisogna farlo? Oddio, diciamo che il titolo aiuta perché sì, Surf su sangue, appunto. Insomma, non è che ci si aspetta una canzone in acustica. Tenera o acustica, sì, o una ballad. Sì. Prima di tutto. Poi per il testo posso passare la parola a Enrico, visto che è lui l'autore. Sì. Eccomi qua. Adesso ho fatto sentire poco per motivi di spazio. Sì, giusto, no, sì, perché la batteria sì, è un po' distante, d'altronde la batteria non può essere davanti perché sennò copre tutto qua. Esatto. Sì, niente, riguardo questo pezzo, è un testo che ho scritto in un viaggio che ho fatto in Norvegia e quindi un po' il titolo richiama un po' le onde dell'oceano, infatti vengono anche cantate nel pezzo. E niente, è una sorta di... non abbiamo ancora parlato del fatto che questo è un concept album che parla di solitudine. Di solitudine, esatto. Sì, e proprio. Quindi insomma ogni pezzo ha un collante che va a legare appunto con i vari aspetti della solitudine. Determinate facce della solitudine, certo. Determinati momenti. Sì. Della solitudine. Questa è una solitudine però molto composta nel senso dei termini, cioè molto pompata praticamente, una solitudine tremendamente pesante. Sì, anche perché è aiutata appunto da questa spinta musicale, insomma, non tanto soffice. Sembrava in alcuni momenti siete partiti con il punk, era un pezzo quasi punk, poi quasi hard rock e poi è ritornato il rock, secondo me. Sì, dai, insomma, sono varie sfumature, insomma. Le sfumature ci vogliono. Sì, sì. Crossover. Ecco. Bravo. crossover perfetto. E parolone. Si parla di onde, appunto potrebbe essere una metafora di passare tra un genere e l'altro con facilità. E adesso abbiamo sentito dal vivo pseudo acustico. Sul palco come l'ho fatto? È un po' più cattivo, ma diciamo decisamente più pompato. Ti scateni ancora perché cari ascoltatori, voi non lo sapete, Enrico ha un sacco Davide, sbaglio sempre con tuo fratello, beh, Davide ha un sacco di effetti, di effetti, no? Sì. Praticamente, come si chiamano effetti? Ma niente, sì, si illuminano con delle luci diverse, a parte quello che sia stata una mia invenzione. Sì. Perfetto. Sì. Niente, sono due distorsori, un delay e poi altri effetti che uso veramente poco. Diciamo, sì, ma quando Davide, voi non potete sapere che all'ascoltatore non c'è di solito telecamere, ma quando lui preme col pedale su uno di quelli, il volume si alza. Sì. C'eravamo anche noi. Ho notato. Tutto in rosso. Tutto sul rosso. Ho notato subito. Sai, già notato immediatamente. Ci alziamo anche noi praticamente. Sì, sollevi, mi sollevi, ma io sono qua. Sono qua. Sì. No, adesso stiamo scherzando, però è così, la musica porta anche a questo. Chiaro, sicuramente, cioè, non per altro, insomma, ho degli effetti proprio per dare anche dei colori diversi al suono della chitarra. Hai detto una cosa giusta, hai dato dei colori diversi. O creare dei momenti proprio diversi nel brano, insomma, ecco. Possiamo dire che questo è un pezzo veramente, una bella, carta di identità, possiamo dire, molto carica. Beh, grazie. Dimmi. Sì, è un pezzo molto carico, come ti dicevo prima, appunto è probabilmente uno dei più sostenuti, diciamo, all'interno dell'album. Cioè, sì. il trio deve essere sostenuto, basso, batteria e chitarra, bisogna... il rock è quello, c'è poco da fare, infatti. È partito da qui. A proposito di rock, ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Plico, che stasera vi ha voluto fortissimamente qua e ha fatto bene. Grazie Alberto. Quindi la musica va avanti, adesso proseguiamo. Mettendo su un pezzo da disco che abbiamo scelto. Che traccia vi ricordi? Che traccia, Davide, abbiamo messo? La numero 6. Che cos'è? La numero 6 è La Speranza. La Speranza. Speranza. Adesso la sentiamo. Sì, è un pezzo, questo è proprio il pezzo acustico per antonomasia. Per eccellenza. Esatto. Sì, effettivamente questo io l'ho messo su nel discorso, abbiamo proprio introdotto come lancio dell'album nei nostri programmi. La Speranza, lo sentiamo adesso. Volevi fregartene, lasciandomi qui a sanguinare nel letto sbagliato. Non hai avuto tempo di aspettare che l'odore di me svanisse fra queste mura. Ora credi di essere forte mentre ti nascondi dentro a una casa. casa che brucia, che sta bruciando, che sta bruciando. Appoggia lo sguardo allo specchio, appoggia lo sguardo allo specchio. E guarda quanto sta implodendo. Basta anche solo questo per sentirmi felice. Sfiorami se puoi, sfiorami se puoi. Non dire una parola che sfori dai nostri pensieri. La speranza con i Nova Lisi era la traccia numero 6 del loro disco. Si sono molto calmati, assolutamente. Davide sul mi diceva, disco. Sul disco. Davide mi diceva, è una ballad, assolutamente una ballad, questa è il pezzo più lento, più crepuscolare, possiamo dire così, Davide. Sì, sì, certamente. L'idea com'è stata di questo arrangiamento proprio schematico e o scheletico meglio? Diciamo che questa bella chitarra rintondante, effettata sicuramente. C'è un po' di effetto. Sì, c'è un po' di riverbero, niente di che. Il riverbero fa bene. Sì, certo. Sempre alla salute. È un'acustica, sì. Beh, questa è proprio acustica, nel senso che anche Enrico suona la chitarra, lui fa proprio la parte principale. No, però. No, questa sera no. Peccato. Nel brano lui appunto suona la parte principale della chitarra e io faccio solo delle armonizzazioni con la mia, e poi c'è Michele. Michele, ho registrato lo xilofono, qualche percussione. Sì. Bella, un'idea quasi folk, un pezzo quasi esatto. Folk. Sì. Ma ci sono anche degli archi nel pezzo. Esatto. Sì, sono gli archi veri oppure veri? Veri. Ce li ha registrati un ragazzo da Udine, Mariano, che salutiamo. Salutiamo, ci citiamo. Quelli che vi hanno salutiamo, dato una mano. Salutiamo. Vi hanno dato una mano nel disco. Eh sì, ha fatto lui questi archi, li ha fatti su questo pezzo e su un altro. Sì. Su due pezzi abbiamo registrato dei celli e dei. Dei celli. Una tromba anche. Sì. Esatto. Devi avvicinarti, Enrico, non si sente. Ah, sì. Bisogna che mi metto qua. Ma il batterista si avvicina sempre di solito, è sempre lontano. Sì. Sì, celli, anche la tromba c'è stata. Sì, anche la tromba. È bello questa idea. degli archi, della tromba. Una, sì, abbiamo voluto mettere tipicamente rock alternativo, possiamo esatto, dire così. Sì, sì, sì, sì, sì, certamente. Venite appunto, c'è Mariano Bulligan, ha suonato il cello, non mi ricordo il nome, comunque il saxofonista, lo stesso Matteo Dainese, il produttore artistico, ha suonato la batteria nell'ultimo brano, su noi. Poi altri ospiti del disco, Enrico Berto, che ci ha registrato Berto il disco. Enrico Berto ha fatto una parte, sì, vabbè, oltre ad aver registrato, ha fatto anche una parte con la chitarra, in Neranima. Bene. E poi la sorella di Matteo, quindi sì, una persona veramente a noi sconosciuta, ha fatto dei cori. Su due pezzi. Bene, quindi un'apertura totale, come si usava una volta, un gruppo, cioè un disco fatto da tanta gente. Collaborazioni. Un gruppo. Vari camei, come si dice. Bello, no? Bello, sì, positivo. Sì, sì. C'è un ritorno a queste cose. Sì. Una volta invece si usava erano una tutti volta un po' più chiusi, forse. Il gruppo si chiudeva in stanza e non usciva. Cioè, adesso c'è un ritorno, giustamente, secondo me. Tu avevi parlato del discorso dello studio vintage, anche il ritorno a collaborare è vintage, secondo me. Chiaro. Sì, l'idea proprio, la mentalità vintage. Un pezzo veramente molto bello. Grazie. Ti ringrazio. Adesso suoniamo un altro pezzo. Sì. Siete pronti? Sì, certo. Suoniamo. Sempre. Sei pronto la batteria? Te? Certo, sempre. Poi illuminarmi anche la seconda orecchia. Ok, sarà fatto allora. Oh, benissimo. Che pezzo ci dice? Stille. Pezzo si chiama Stille. Perfetto. Lo dico perché lo ritengo importante. Sì, te stesso nessuno lo può fare meglio di te. Ricordami di chiudere a chiave quello che sento. Conserva sigaretta, è facile buttarsi via, non siamo alla giusta distanza, ma voglio guardarti ad occhio nudo, sento di stare a galla nella sorgente delle lacrime. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. I Nova Lisi con noi questa sera dalla provincia di Treviso. Maurizio. Scatenati dalla provincia di Treviso. Eh sì. Aspetta che alzo tutto di nuovo. Veramente anche questo era un pezzo abbastanza tosto. Cosa sì. Dici Davide? Sì, anche questo. Ma io te vedevo, fammi un momento la solo iniziale che facevi. Dopo sei partito alla grande. Ma quella solo aspetta. Questo? Esattamente. Era un po' sporcato di blues, sei d'accordo? Sì, certo. A me piace molto quando c'è del blues. C'è del blues. Cosa dici te, Michele? Sì, sicuramente. Anche Enrico è d'accordo? Bah, no, sì, mica tanto. Abbastanza. Dai. Ma diciamo, io personalmente non sono un grande ascoltatore di blues. No, ma però, il blues però... Non, ammetto che c'è del blues. No, cioè, lo sporco di blues vuol dire che ci sono dei riferimenti appena accennati. È chiaro. Poi il rock, ma il rock è figlio del blues. È chiaro. Cioè, ma sono tutti... Sono tutti figli. È tutto nello stesso minestrone. Ma è un bel minestrone. Si digerisce bene, secondo me. Esatto, soprattutto. Sì, a proposito di minestrone, adesso sono le 23, Sergio lo sa, alle 23 c'è una piccola cosa, c'è un giochino. I dischi da portare su un'isola deserta. Da scegliere. Quanti dischi, però? È tre, facciamo italiani e stranieri. Quello che vuoi, a tuo piacimento. Non compilation. Ne scegliamo una testa. Non compilation. Ho detto Sergio, non compilation. Non compilation. Non esiste. Okay. No X Factor né amici, assolutamente non esiste. Qua i dischi da portare sull'isola deserta di Rock Wave. Ci cogli impreparati perché alla fine di dischi, insomma, no, dischi se ne piacciono musicali. Qui due, tre. Boh, prima c'era ospite telefonico Giorgio Prete degli After Hours. Secondo Quindi, me. Citiamo gli After Hours. Quello che non c'è degli After Hours. Perché, Michele, ti piacciono gli After Hours? Tu che sei giovane. Mi sono sempre piaciuti un sacco da quando li ho scoperti. E ho fatto un periodo che ascoltavo. Boh, chiaramente, come tutti i 14 anni, quasi solo musica in inglese, musica certo, americana. E poi ho scoperto... La svolta sono passati all'italiano, chiaramente. Sì, esatto, io chiaramente ho fatto anch'io quella svolta, ho iniziato ad ascoltare anch'io musica in italiano e ho iniziato ad ascoltare molto gli After Hours, i Verdena, e sono stati i due gruppi che più forse mi hanno influenzato, i due gruppi italiani. E boh, comunque... Al di là della musica, anche i testi mi piacciono un sacco. Manu è molto bravo, decisamente. Sì, sono un gruppo completo, hanno fatto un sacco di dischi e secondo me... E cosa ne pensi di Padania? Abbiamo parlato con Giorgio. Molto bello. Sì, mi ci è voluto un bel po' prima che mi entrasse. Però... È difficile, non è un disco semplice. Però sì, bellissimo. Come tutti. Secondo disco. Eccoli qua. Secondo, ormai non saprei. Dura. Sussidiario illustrato della giovinezza dei Baustelle. Ah, ecco, sì. Baustelle. Il primo disco dei Baustelle. Cosa ne pensi di Fantasma? L'hai sentito? No, non l'ho ascoltato con attenzione. Ho ascolticchiato qualcosa, ma non voglio commentare. L'uso dell'orchestra. Può essere bello. Secondo me è una cosa molto originale. Originale, sì. Intelligente, secondo me. Sì. Ma poi, già nel disco precedente si notava qualcosina del genere. In questo, sì, ho ascoltato... Non con attenzione, è molto ricercato lui quando scrive i pezzi, anche quando scrive i pezzi per Sanremo per gli altri, quello di Chiara. È un personaggio. Sicuramente. Poi il terzo disco, Michele? Ne mettiamo uno straniero a sto punto. Vai Michele. Mettiamo X e Y dei Coldplay. Ah, vedi. No? Davide non è d'accordo? Me l'hai fregato. Ah, era quello che stava per dir lui. Non si può copiare. No, è un disco che... Sì. Bellissimo, secondo me. Me lo ricordo quando è uscito, l'ho comprato subito. Immediatamente. Avevo ascoltato questi Coldplay. Era il disco del 2005, se non sbaglio. E avevo 13 anni, mi ricordo, mi piacevano un sacco. Ho comprato il disco. Adesso ti piacciono ancora? Sì. Boh, mi piacciono di più i dischi vecchi degli ultimi. Però... Sono comunque un gran gruppo. Gli ultimi hanno avuto il successo planetario. Gli ultimi, sì, sono prodotti da Berlino. Hanno avuto, sì, forse la svolta un po' commerciale, ma magari neanche in senso cattivo. Nel senso di allargare l'ascolto. Esatto. Tocca a te, caro Enrico, adesso ti avvicini. Il nostro batterista. Eccomi qua. Quindi, all'inizio tu dicevi i tre dischi da portare su un'isola deserta. Esatto. No? Sì, diciamo che la scelta sarebbe determinata con chi si va in un'isola. Questo oppure, è un altro par di maniche. Parliamo solo dei dischi da portare, delle entità musicali. Allora, i tre dischi che scelgo io, cioè in base a quello che vuoi, sì, ai tuoi gusti. In base ai miei gusti, ai miei interessi. Però comunque, insomma, scelgo tre dischi che mi fanno stare bene se devo stare in un posto, certo, lontano, deserto. Quindi io citerei in italiano un gruppo che è ancora un po' nell'underground, che sono i Fine Before You Came. Questi non li conosco. Sono un gruppo, sì, che mi piacciono particolarmente per le tematiche, per la pesantezza strumentale, però insomma trattano insomma degli aspetti molto belli in cui ognuno ci si può immedesimare sopra. Da dove vengono questi ragazzi? Sono toscani, se non sbaglio. Contattiamoli. Italiani comunque. Certo, come no, beh, diremo al nostro direttore artistico. Questi vi buttano giù i muri, l'antenna. Poi il secondo, Enrico? Poi io al secondo metterei i Placebo, proprio perché sono una delle gruppo. Mie band preferite, insomma, li ho anche visti un po' di volte. Hanno fatto un percorso. Sì, diciamo che loro rispetto ad altri mi hanno aperto grandissimi orizzonti, eccola qua, Special Needs. E come ultimo vorrei mettere un gruppo che ho visto da poco, che mi hanno veramente sconvolto, e sono un gruppo che non canta, vengono dal Massachusetts, si chiamano Caspian, e sono dei... Ecco. Facce. Fregato anche questa volta il fratello, quindi se ne deve scegliere altri due adesso. Il gioco è quello. L'hai visti recentemente? Sì, li ho visti recentemente all'appartamento Hoffman di Conegliano, e sono stati veramente strepitosi. Mi hanno... Non lo sono so. Sono strumentali, hai detto. Sì, sono strumentali, fanno post rock, e ti portano veramente in atmosfera in cui vorresti essere in quel momento. Bene, tocca a te Davide adesso. Sì, Michele e Enrico mi hanno fregato. Ma si vede che ascoltiamo tutti più o meno la stessa cosa. Mi pare giusto, cioè, sì. Sei arrivato per terzo, purtroppo la ruota è così. Vabbè, allora io sceglierei sicuramente un disco italiano, un disco che mi ha segnato decisamente, diciamo, le mie influenze musicali, i Verdena, Solo un grande sasso, diciamo i primi Verdena, insomma. Perché... Possiamo dire che i primi Verdena hanno influenzato molti band emergenti, sicuramente. Fondamentali. Sicuramente. Ah, il disco, l'ultimo che hanno fatto, quello doppio? Wow, esatto. Wow, e loro wow. Bianco, qualcuno dice. Sì, non ho fatto wow quando l'ho ascoltato, però... bisogna sentirlo. È il loro album bianco, secondo molti. Sì. No, è bello. Sì, è complicato. Esatto. È complicato. Eccoli. Dai. Sono tosti. È scuola. Sì. Poi sono rimasto un po' spiazzato perché... Ma Davide è il metallaro del gruppo. Ah, sì. Fra Enrico e Michele ti hanno praticamente prosciugato le... Sì, diciamo di sì. Ma io probabilmente mi porterei un qualsiasi disco dei Coldplay. Michele ne ha citato uno, quindi tutti gli altri meno di quello. Citare un altro. Un altro. Come mai tutti amano, voi siete abbastanza rockettari. Sì. I Coldplay sono rockettari ma fino a un certo punto... Sì, però hanno erano più rockettari gli Oasis in alcuni momenti. Esatto, beh, sicuramente. No, niente, i due fratelli che facevano sempre barruzzo. Sì, i Coldplay mi trasportano, mi fanno sentire tranquillo. Beh, lui ha una bella scrittura, molto bravo a scrivere i pezzi. A me piace anche molto la voce, lui è molto delicato. Bellissima voce. Ma è la semplicità, secondo me, loro, l'atmosfera che creano e la semplicità con la quale fanno le cose. Che dobbiamo sottolineare che hanno dietro un certo personaggio, si chiama Brianino. Sai, quando tocca le cose. E poi comunque abbiamo avuto la possibilità anche di vederli dal, cosa ti dal sono vivo, sembrati? Oltre che, insomma, da un punto di vista musicale, anche l'impatto scenico, insomma, fa molto nell'atmosfera della serata del concerto, insomma. Sono bravi anche dal punto di vista scenico. Sì. C'è uno spettacolo veramente, insomma, che solo quando ci sei dentro puoi capire veramente l'emozione che ti può trasmettere, insomma, la musica abbinata appunto al fuochi d'artificio, alle luci, alle palle che girano in mezzo alla gente, insomma. Bellissimo. Sì. Sì, sì, molto scenografici. Terzo disco porto Perversi soli dei Nova Lisi. Giustamente. Beh, ha ragione. Ci ha fregati tutti. È giusto che sia così. Perché bisogna portare il per prodotto. Non dimenticare. Per non dimenticare. A proposito di non dimenticare, ricordiamo anche l'etichetta, che è l'etichetta pimontese. L'etichetta, diciamo che c'è stata una fusione. Una fusione. Nel senso che Face Like a Frog, etichetta piemontese, e Matteite, che è l'etichetta del produttore artistico. Quindi c'è stata una fusione. C'è stata una fusione, diciamo che comunque ha fatto tutto il produttore artistico, nel senso che ha trovato lui l'etichetta e ha deciso di fare questo accordo ed è andata così, insomma. Benissimo, adesso abbiamo sentito i dischi. E il sito? Sì, anche poi queste cose le ricordiamo sempre a mezzanotte. Esattamente. E dove si trova il disco? Esattamente. Ricordiamolo adesso, è giusto. Il disco, vabbè, o venite ai concerti, quindi ve lo vendiamo noi, oppure c'è la distribuzione Venus, quindi in qualsiasi negozio si può ordinare. Su iTunes anche. Su iTunes. E avete qualche data prossima? Suoneremo il venerdì prossimo. Venerdì prossimo, il 15, a Fontana Fredda, in provincia di Pordenone. Pordenone, al Piper Club. E poi per il momento... No, per il momento niente, stiamo comunque lavorando a nuove produzioni. Ma magari siamo... in estate, più facile suonare, festival, cosa. Esatto, d'estate sicuramente sarà più facile. Con tutte le giuste proporzioni dal vivo, quell'impatto giusto, Enrico, dico sì, è vero Enrico. Sì, perché infatti insomma... ma la batteria è bellissima ufficiale questa oppure... È più grande ancora. È più grande ancora. È più grande cioè, infatti non sapevamo bene che spazio ci... questo è lo spazio. E quindi insomma... Oggi siamo molto molto ridotti anche e soprattutto molto contenuti, però insomma è giusto ringrazio. Così, va Muri, bene così. Muri hanno una certa età, quindi devi tenere conto di questo. E niente, poi ci trovate in tutti i social network, Facebook, Twitter, MySpace, Reverb Nation. YouTube, cercando Nova Lisi, insomma, vi si trova. Su YouTube potete sì. trovare sia tutti i nostri brani, ma anche il video ufficiale di AM, che è il singolo che abbiamo scelto. Per l'avete per scelto disco. Voi o l'ha scelto il produttore? Insieme, insieme. Sì, è diciamo stato di un sì, face to face. 50% a te. 50-50 come un face to face, faccia a faccia. Face to face, ecco, face to face. Beh, insomma, avete scelto assieme. Così esatto. Tagliamo la testa al toro. Diciamo positiva. Che li abbiamo passati tutti. Questo potrebbe essere il singolo. Questo potrebbe essere il singolo. Ma è bello. avete detto che avete trovato il produttore su internet, vero, Sergio? È una cosa bella. Siamo di elenco telefonico. Esatto. Produttori musicali. Proprio così. Una volta si sarebbe usato quello. Esatto. Mi ha proprio fatto così. Bene, sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia abbiamo scelto, Sergio, adesso? La numero 8 dovrebbe essere Neranima. Ok, la sentiamo. Eccola qua. Yeah. stanco di scrivere agli altri, anch'io tante cose da dire, da rimpiangere, dimenticare. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questa sera su Blu Radio Veneto, a Blu Radio Veneto in Nova Lisi. Maurizio, questa era la traccia, abbiamo detto la 8, sì, Neranima. È una traccia lunghissima, non belle, belle le tracce bella, così, sì, sì, sì. Intensa. Bella, intensa. Onirica anche, bravo, un po'. Bravo, proprio onirica. Queste voci lontane. Sì, sì, sì. Sognanti. Sì, iniziava... Anche un po' inquietanti. Bello, bello. Un po' di tutto, esattamente. Un po' di tutto. Sì, iniziava lentamente, poi si è aperta, poi alla fine c'era una tranche rumoristica poi alla fine, sì, secondo me. Sì, sì, l'esplosione totale, non è The Dark Side of the Moon, però è l'esplosione totale. Ci va vicino. Ci va vicino. È Pink Floydiana. Live a Pompei, vi ricordate, l'esplosione totale. Cioè, come mai questo lunga... È una lunga jam session praticamente, Daniele, Enrico e Michele. Potete rispondere tutti e tre all'unisono. Sì, abbiamo fatto questa parte strumentale alla fine, nella quale più o meno aggiungiamo man mano uno strumento. Ci sono i piattini, ci sono i piatti, i cembali, voci cori, ci sono tre chitarre alla fine. Sì, tre chitarre. Sì, abbiamo diciamo registrato tante cose. Abbiamo sovrapposto molti strumenti. È stato difficile l'idea di registrare tante cose, Enrico, con la batteria. Tu che hai una batteria, cioè in questo pezzo dava una spinta ma molto tenebrosa, come un inquietante, diceva giustamente. Sì, esatto, anche perché appunto a livello tecnico, tra virgolette, è stata usata appunto con delle bacchette che di solito insomma non sono molto convenzionali con, cioè, con cosa il, vuol dire, con Enrico, il rock. Bacchetti non convenzionali con il, cioè, rock. Ho usato delle semplici mazze alla fine che ricreassero un po' insomma un suono un po' più ovattato e meno invadente, che stesse di più insomma con il mood di tutto il pezzo. Sì. E la batteria inoltre è stata ipercompressa, cioè proprio questo effetto, certo, che si sente quasi di implosione quando, certo, suona la cassa. È proprio un effetto che abbiamo messo. Sì, una scelta. Una scelta, sì, esatto. E le suonare 3-4 chitarre, Daniele, dicevi. Davide, sì. Daniele. Oggi non c'è niente da fare, Davide. La va bene, però la testa è mica tanto. Cioè, no, queste 2-3 chitarre. Ma diciamo che ne ho suonate due io e poi è stato Enrico Berto che ha detto boh, adesso ne metto una anch'io, perché gli sembrava figo mettere sì, una chitarra. Una in più, va bene. Esatto. È stata proprio una decisione nel senso di partire molto tranquilli in questo brano e crescere di intensità, esatto, insomma, fino, sì, alla fine. Quindi, cioè, siamo arrivati a suonare ognuno il proprio strumento, però volevamo crescere, quindi bisognava aggiungere qualcosa. Abbiamo deciso di aggiungere un'altra traccia di chitarra, di mettere dei cori, di aggiungere un'altra chitarra e così insomma abbiamo creato questo crescendo finale. E dal vivo questi strumenti che si mettono proprio in mostra, come succede dal vivo presentare un pezzo simile? Sarà più scarna magari. C'è più dinamica tra di noi, sì. Ovviamente possiamo suonare solo un strumento a testa, certo, al momento, perciò, però sì, tutte le parti sono state diciamo studiate nel momento in cui c'è il synth, Michele non suona il basso, esatto, sì, e viceversa, quindi cioè, non è che c'è una grossissima differenza nei live, perché alla fine ultimamente stiamo suonando anche con tutte gli altri strumenti che sono presenti nel disco, nel disco messi ci in base. Sono i fiati, tutte quelle, sì, sì, esatto, vengono messi in base. Cioè, cosa vuol dire? Che suoniamo a click, e abbiamo estrapolato diciamo questi suoni dal disco, dalle registrazioni, e suonando a click. Perciò in un determinato momento sappiamo che deve venire fuori questa tromba o questo... E se non viene fuori sono i problemi, se non vengono fuori o se vengono fuori nel punto sbagliato, sì, a quel punto là siamo fregati. Sì, perché tecnicamente è difficile proporre uno che suoni la tromba oppure uno che... Sì. Siamo anche in tre, perciò dovremmo essere vista in 28, del budget praticamente. Per radunare tutta questa sì, sì, sicuramente, cioè, no, ma è bello anche che certe cose ci siano solo nel disco e certe solo dal vivo, a mio parere. Sì, è bello che comunque il disco non sia proprio come un concerto, è bello rendere le due cose diverse. È vero. Sì, qualcuno dice, però spesso ci sono due pareri. Qualcuno ama particolarmente risentire totalmente o quasi quello che si sente dal disco, chi invece dice no, dal vivo deve essere tutto l'opposto. Di che parete? Noi non siamo né l'una né l'altra, cioè nel senso vogliamo riproporre il disco, però cioè il live lo vivi, non puoi suonarlo come nel disco, cioè è una cosa che ti viene al momento, cioè ma c'è chi lo distrugge proprio il disco, lo cambia totalmente, siete d'accordo? Sì, arrivate fino a là. Ma diciamo che alle volte ci piace giocare anche sui nostri brani, sì, ma raramente. È successo magari in qualche occasione. Magari li allunghiamo i finali, sì, allunghiamo delle parti. Ci piace comunque nel vivo, sì, nel concerto dal vivo, comunque anche spaziare all'interno del brano. Quindi ogni concerto è una sorpresa, esatto, alla fine. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E un'altra cosa che spesso capita, non so se anche per voi, provare i pezzi nuovi a suonarli dal vivo, e succede anche voi, è successo così nel disco? Avete provato i pezzi dal vivo e dopo li avete incisi? Sì, oppure sì, prima li avete incisi e dopo provati? No. Li abbiamo prima provati. Sì, c'è stata qualche occasione dove abbiamo voluto provarli, insomma, per vedere anche come effetto aveva. Sì, sì, esatto. E poi li abbiamo registrati in seguito. Ma perché ci sono due correnti di pensiero, chi dice no, ci roviniamo, non vogliamo far sentire gli altri quello che abbiamo fatto. Infatti con i nuovi pezzi penso che sarà avete già dei nuovi pezzi, però sì, diciamo qualcosa, che sono in lavorazione solo dal punto di vista strumentale adesso, insomma. È come un po' alla volta un pezzo dei Nova Lisi, come nasce? Ci troviamo in sala prove e suoniamo. Sì, diciamo che uno ha ognuno mette il suo, ma Davide fa un giro di chitarra a casa oppure no, Davide? Ma sì, o magari a casa. Assieme ad Enrico che con la batteria e un'altra chitarra, visto che. Sì, ma anche Enrico, cioè, lui comincia anche lui con la chitarra a scrivere. Lui ha la chitarra acustica a casa, si mette lì, gli viene un giro. E ma perché alle scelto di suonare la batteria, Enrico, e non la chitarra? Beh, io nasco tra virgolette come chitarrista, ho iniziato a 10 anni e dopo 6 anni circa, insomma, mi è partita questa voglia, idea. Sì, questa voglia un po' di spaccare tutto. Sì, è una prerogativa penso un po' di tutti i batteristi. E niente, insomma, la cosa mi piaceva molto e ho detto perché non continuare. E quindi niente, ho deciso di fare un po' di lezioni giusto per avere un'impostazione, perché veramente il ritmo a me piace molto e lo sento in tante cose, insomma. È una cosa molto positiva che chi riesce ad avere un batterista, il gruppo è molto contento. Batterista non è una cosa semplice da trovarsi, è difficile. Le tipiche mosche bianche. Tipiche, perché tutti suonano la chitarra, ma chi suona la batteria sono pochi, e quindi è molto positivo. La mosca bianca, quindi abbiamo subito preso Enrico nell'organigramma della band. D'altronde basso, batteria e chitarra, abbiamo già detto all'inizio, il rock è così. Per antonomasia. Esattamente. Poi di rock, cosa suoniamo ragazzi adesso? Suoniamo The Clocks, bene. Thank you. qualcosa che non serve, qualcosa, qualcosa che non serve, qualcosa che non serve più, qualcosa che non serve, qualcosa che non serve più, qualcosa. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ci siamo guardati. Tanto di cappello. Esatto, siamo guardati. Tutto quanto. Grazie mille. Tutto... No, veramente. Potente, potente, potentissimi, potente. Siete stati potentissimi. Questo Clocks. Questo Clocks. Cioè, Clocks. Incredibile, proprio una potenza spaventosa nel senso positivo del termine. Enrico, hai mangiato la batteria stasera? Proprio... sì, infatti non abbiamo mangiato niente, quindi è l'unica cosa che ho mangiato il cerchio della casa. In ogni caso ho notato una cosa, questo era un pezzo piuttosto complesso, molti stop and go, cioè sì. un recensore parlava di ipnotismo di Clocks, era ipnotico anche qua dal vivo, soprattutto sì. Nella fase centrale. Diciamo che c'è questo gioco proprio all'inizio con c'è proprio un orologio come la solitudine con... fa ipnosi, certi suoni che si ripetono all'unisono sempre più sempre sì. Più forti sì beh, comunque cioè, una sfaccettatura della solitudine, certo. Anche quella comunque di essere ipnotizzati dal proprio pensiero nel senso... esatto, tempo nel senso di pensiero. Sì, uno che comunque si sente solo a questa cosa dentro di sé che non riesce a esternare, quindi cioè, si ipnotizza da solo, nel senso naviga con i suoi pensieri fino a quasi a un'estasi, a, una, sì, a un viaggio. Un totale viaggio. All'apice finale. Che abbiamo... L'apice finale. Sì. E questa esplosione lenta ma progressiva della batteria, Enrico, volutamente così questa sera l'hai fatta in questa maniera. Sì, diciamo che l'idea iniziale, forse se non ricordo male, era l'idea iniziale un'altra... di questo pezzo? Non era così sali e scendi. No, forse era un po' più, diciamo, sostenuta dall'inizio alla fine. Poi, insomma, un po' in base al testo, ad alcune accortezze, insomma, ci sembrava giusto, insomma, ricreare queste situazioni un po' appunto di sali e scendi per creare anche un po' di tensione all'interno del pezzo. E anche di tensione... tra gli strumenti, sì, sì, esatto. Positiva, sì, Paolo, sì, di questo. Che poi insomma secondo me si traduce anche un po' in una tensione emotiva, perché insomma la parte centrale quando scende insomma è abbastanza come si può dire sognante, e quindi certo. Insomma le note e le onde di solito vanno a interagire con alcune parti del corpo e del pensiero, insomma. E posso dire, non so se siete d'accordo, questo effetto qualche volta anche dark, oscuro, dopo sì, si apre, si illumina, anche se però il sole non è così pieno mai. Ma ci piace rimanere un po' nell'ombra, forse. Nella penombra, ecco. Sì. Sì, è una cosa cercata, forse. Cioè, ce l'abbiamo dentro. La solitudine non ha luce. Esatto, la solitudine non ha luce, giusto, esatto. Quindi, ripeto, questo è un concept album, ripetiamo, sulla solitudine. E tutte le diverse facce musicali, le colorazioni, non possono essere così solari. Esatto. Avete colto alla perfezione, insomma, il nostro intento. Esatto. Devo partire dalla penombra, quindi le diverse sfaccettature partono sempre da quello. E l'essere più o meno i stop and go che continuamente tu fai, la chitarra di Davide, il gioco della tastiera di Michele porta a questo, è l'insieme, la costruzione del pezzo. Poi chiaramente il disco è stato inciso bene, si sente bene, da band emergenti vi facciamo i complimenti, si sente veramente bene. Grazie. E diciamo che il disco è una sorta di le varie sfumature di nero, cioè visto che c'è il libro. C'è il libro, sì, è vero, verissimo. Io spero vi faccio l'augurio che voi riusciate a vendere tutte le cose come libro. Sarebbe male. Scherzi a parte, però è quello, è l'importante farvi sentire, e questo io ho letto le critiche, sono tutte positive. Qualcuno ha detto sentiremo la stessa cosa, ma dopo l'articolista continuando ha detto no, potevamo sentire la stessa cosa, ma poi sentendo bene il disco abbiamo cambiato idea, e questo è molto positivo. Sicuramente, sì, certo. Sì, sì, certo, sicuramente, decisamente. Ok, 23 e 33, 34 quasi, dopo questa cavalcata elettrica, possiamo dire una cavalcata elettrica? Certo. Non l'abbiamo mai detta stasera, perché era una cavalcata elettrica. Si può, si può. Esattamente. Passiamo ma è un cliché. Ogni mercoledì. Vabbè, ma ci sta. Ma ci sta. No, dai. Sì. Abbiamo un'altra traccia posto. L'ultima, almeno dal disco, Noi, che è appunto l'ultima. Okay. La traccia numero 10. Eccola qua. Certezze ci faranno solo ridere, quando queste indecisioni svaniranno per sempre. Solo ora ci penso, ora che non ci sei. Questi argini infiniti, solo ora mi rendo conto che è troppo tardi, siamo troppo giovani, siamo troppo stupidi. Allora, questa era Noi, l'ultima traccia del disco dei Novalisi. Anche qui, Sergio, un tiro non da poco, mi pare. Sì. Decisamente tirata. Anche adesso mi spieghi. La batteria. Sì. Mi spieghi questo effetto claustrofobico, non so come definirlo. Mette ansia. Mette ansia. Rutilante. Vai, Enrico, dai. Sì, l'effetto che è stato messo, intanto questa batteria è stata suonata da Matteo, appunto il nostro produttore artistico. Il quale appunto è molto eccentrico quando si mette dietro le pelli, e alla fine insomma c'era questo ritmo incalzante che ci piaceva colorare con qualcosa di, ma anche di particolare, che non si fosse ancora sentito nel disco, e appunto abbiamo deciso di mettere questo effetto di distorsione alla batteria, che è una cosa che di solito magari non è tanto, sì, un effetto schizofrenico, mi sembra. Sì, ecco, sì, dai, sì. È l'ultimo pezzo e ci stava che fosse, cioè che chiudesse in un modo un po' più particolare. Ma la solitudine non è schizofrenica, però, o no? Oddio, la solitudine può portare può portare ecco, dai, può sì, portare diciamo che può portare la pazzia. portare. Questo era l'effetto, cioè, poteva essere anche un'altra faccia questa. Allora, certo. Matteo ha deciso, chiaramente deciso, voi siete stati d'accordo al 100%. Sì, sono cose che sono venute fuori. Ma diciamo che sono venute fuori durante le registrazioni. Sì, durante le registrazioni, perché chiaramente in sala non è che possiamo distorgere la batteria. Certo, certo. Abbiamo fatto delle prove in studio e ci è piaciuto e abbiamo deciso di tenerla così. Ma è stato al primo impatto oppure sono state diverse elaborazioni? Sì, abbiamo fatto diverse prove. Ma è stato il pezzo più difficile da farsi, da registrarsi. Ma da registrarsi. Più difficile. Ma più oddio, complesso, più che avete provato un sacco di volte che non gli andava mai bene praticamente. Ma diciamo non ce n'è stato. Siamo arrivati in studio preparati. Sì, sì, nel senso abbiamo registrato tutto in due giorni, le parti strumentali, batteria, chitarra e basso. Poi nella nostra sala prove abbiamo registrato le voci, le acustiche con molta più calma, perché comunque le linee vocali non erano ancora molto definite, quindi abbiamo deciso di prenderci un po' più di tempo e di calma, nel senso di proprio tra le mura della nostra stanza, e lavorare un po' meglio le voci. Ma diciamo che a livello proprio strumentale la parte principale dei brani in due giorni ne abbiamo fatti tutti e 10. L'avete mixato sempre là? Sempre lì, sì, mixato e anche masterizzato. Ah, direttamente là? Tutto là, sì, abbiamo deciso di fare tutto là alla fine perché ci siamo fidati di Enrico. Ci è venuto fuori un bel lavoro, no, siamo decisamente, il suono è bello, si sente bene, cioè anche nelle esasperazioni degli strumenti sono ancora nitidi, sono sovrapposti, perché qualcuno dice possiamo anche sovrapporli volutamente. Sì. Non è il vostro caso, no, secondo no, me no, noi abbiamo appunto cercato di lasciare respiro comunque allo strumento, che sempre la chitarra che non andasse a invadere il synth, o viceversa il basso che non andasse a coprire la cassa. Cioè abbiamo cercato di dare a ogni singolo strumento il suo spazio e al giusto volume, senza andare proprio a comprimere tutti i suoni. Ecco, tu hai detto una cosa bella, non dare allo strumento la sua importanza. Sì. È una cosa positiva, anche se però succede nelle band indie qualche volta che questa, non parlo di confusione, questo rimescolare le carte. Certo. Può essere anche positivo, ma dipende. Sì. Magari in ogni canzone come in questa che abbiamo appena ascoltato. Beh, questo avete rimescolato molto. Aveva la batteria, cioè anche a te la prima cosa che ti è venuta a chiedere è stata la batteria. Sì, non capivo in questo modo caso di magari, suonarla. In questo caso quello. Magari aveva un'importanza diversa rispetto a, ma secondo me ogni pezzo, ogni traccia che avete suonato, avete dato il suono, avete dato l'impostazione, perché volutamente il testo parlava di certe cose e dovevate impostarlo dal punto di vista musicale in quella maniera. Certo, e poi insomma ci teniamo molto nella lingua in cui cantiamo, e quindi è importante che insomma quello che diciamo venga esatto, perché venga cantare in italiano non bene. È semplice, è difficile. Sì, infatti. Cioè, è più semplice cambiare in inglese. Certo, anche perché come lingua è molto più musicale l'inglese. Certo. In italiano ci sono alcune limitazioni che a volte bisogna trovare il compromesso per farla suonare bene. Bisogna prendere un dizionario di sinonimi e contrari. Bello, bravo. Vedo che vai a scuola, se vai all'università le cose le capisci immediatamente. Cosa dici, Sergio? Sì, sei d'accordo, anche Sergio, sei d'accordo, 23:42, adesso siamo d'accordo, cioè sentire qualcosa d'altro, sempre alla vostra propulsione sonora, cioè, una bella chitarra elettrica, fammi vedere la chitarra elettrica, è un'ottima cosa, è cattiva. Bello il cattivo, bello musicale, è violenta, ma il violento quando si suona non è mai violento, è sempre musica, ok, che cosa? Suoniamo allora? Sbagli, ok, no? Sì, sono d'accordo. Perché siamo come soprammobili su questa terra, perché siamo fatti per sanguinare nell'oceano, perché viviamo nel mondo dei sogni segregati, perché vogliamo un'altra vita, a volte questa non basta. perché siamo le stelle cadute dal cielo d'inverno, perché siamo quelli che molte volte gli altri non vedono, perché vorremmo dire tante cose ma non troviamo più la bocca, perché vorremmo essere quelli che siamo sempre stati. Siamo infine cenere che verrà spazzata dal vento, perché in fondo siamo semplicemente noi con i nostri sbagli, perché siamo Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ultimo quarto d'ora, Maurizio. Sì, mi è piaciuto tantissimo questo pezzo, Sergio. Questa chitarra quasi hendrixiana, gli effetti un po' strani. Fammi che un'altra volta questi effetti che erano molto belli. Interspazio, Echi e Manetta. Bellissimo, sì, bella. Veramente molto bella, veramente. Complimenti. Pezzo molto scheletrico. Sì, diciamo sì. Che qua mancava la parte di synth che faccio io. Poi gli strumentisti al 100%. Sì. Lo fratellico Michele. Sì. Ci giriamo un po' tutti. Sì, io ho cominciato con pianoforte, come Enrico, ho cominciato la chitarra e poi mi sono dedicato alla chitarra. Enrico suona la batteria, suona la chitarra elettrica, Davide, Michele suona il basso. E avevi suonato molto bene il basso, accompagnavi, non ti mettevi davanti, eri un po' dietro. Sì, era un po' dietro forse, sì. Seguivo un po' più la base ritmica. Esattamente, sì. Davanti era Davide. Sì. Enrico... che è sempre davanti, questo pezzo era leggermente... Si è contenuto. Si è contenuto, ma secondo me... Dimmi Enrico. No, niente, insomma. Ero nel culo del pezzo, se si può dire. Come si può dire, sì, esattamente. Però era bello, dal vivo lo fate nella stessa maniera oppure lo variate leggermente? Ma guarda, il finale è sempre diverso. Cioè non c'è una... Anche adesso l'abbiamo improvvisato. Sì, è sempre improvvisato. Poi basta uno sguardo e uno capisce. Questo era cioè anche gli altri erano perfetti, ma questo proprio era molto nel mio DNA musicale, secondo me. Beh, ci fa piacere. Correva tra gli anni 60, 70, 80, 90. Correva un po' di tutto. Arriva al 2013, stasera. Però è bello, è positivo. Vuol dire che ci sono tanti riferimenti. Voi siete giovani, però i riferimenti importanti li avete citati prima con i dischi. Ci sono, non si devono perdere. No, assolutamente. Ce ne sono tantissimi altri, insomma. Che, sì, ma i riferimenti sono importanti, ma dopo il fondamentale è che costruiate voi la vostra musica, assolutamente. Infatti, cioè, si rende conto quando si crea qualcosa di nostro che sicuramente qualcosa proviene un po' dai nostri ascolti, dalle band precedenti, eccetera. Insomma, ci sono tante cose che poi vanno a interfacciarsi tra di noi. C'è chi ascolta qualcosa di particolare, di più dell'altro, chi, insomma, ci sono tanti aspetti che poi portano comunque a fare un pezzo che ci convince tutti e tre. Esatto. E un'altra cosa positiva, siete, cantate, fate cose vostre, sì. È quello importante. Non è semplice coi tempi che corrono, vero ragazzi? L'ho sempre fatto. L'avete sempre fatto. Sì. Suonare è difficile, trovare un locale, un posto per suonare, quando uno dice no, io suono le cose mie, non faccio una tribute band. È più difficile, sicuramente, sì, che una tribute band. Sì, più difficile anche perché comunque appunto il pubblico italiano non è molto propenso ad ascoltare cose, le band emergenti. Sì, esatto. Eppure, cioè, io parlo della Germania, spesso e volentieri c'è venuto gente che è andata a suonare in Germania, dicevano che quando andavano in Germania a suonare e suonavano i pezzi loro, perché certi locali tedeschi o olandesi vogliono i pezzi autentici loro, no? In Italia è un po' così. In Italia è diverso. Tanti gruppi sono, sì, sicuramente, sì. Però. Ma non c'è la stessa attenzione che c'è, come citavi tu, in Germania o in Gran Bretagna, insomma. Ma forse anche il pubblico a volte che non è ovviamente preparato per... Sì. Non c'è proprio la cultura, secondo me, qua in Italia. A parte i rocchettari, diciamo. Ma i metallari, forse. Ma gli altri... Cioè, vai in un locale e senti una cosa che non hai mai sentito, dici... Che scatole, magari. Sì. Se ti fermi un po' di più, dici, che bravi, però subito magari dici... Subito uno dice, non fanno le cover di Ligabue, ciao. Esatto, mi annoierò. Esatto. Ma infatti dipende anche dove vai a suonare, perché se vai in un bar, chiaramente il sabato sera alle 9:30, la gente pretende cover e alla fine se sei là le suoni, per carità. Alla fine se noi dobbiamo suonare preferiamo sempre suonare magari in club o un festival, posti dove la gente va là solo per fare quello, non è che va perché là sa cosa trova, dove la musica è indipendente. La gente non va là a bere una birra e vuole ascoltare la musica di sottofondo, la gente va là e ascolta la musica e magari in più si beve birra. Anche la birra, chiaramente. Però la cosa principale sarebbe andare là ad ascoltare il gruppo, e questo succede in pochi quello posti. Lo spirito purtroppo del festival, il festival è basato sulla musica, poi ci sono le varie sfaccettature, i panini, la birra e quant'altro. E a proposito della scena, com'è la scena dalle vostre parti? Ma ci sono i due locali più grossi che spingono parecchio, che sono il New Age e New Age, Roncade, famosissimo, storicissimo. Il Deposito Giordani, anche a Pordenone. Il Deposito Giordani. Ma a Pordenone avete una bella a Pordenone c'è una bella bella scena, grande complotto, si parlava Prozac. Tra Allegri. Ragazzi morti. Cioè, una scena. Innanzitutto anche il discorso della base americana di Aviano porta molti gruppi americani, diciamo che inglesi, la nostra zona soprattutto è florida di concerti, di festival, soprattutto in estate, insomma ce ne sono parecchi. Forse lo spazio per chi come noi è sempre meno, insomma, si fa un po' più di fatica, però insomma bisogna non mollare mai. Hai detto una cosa giusta, bisogna suonare, bisogna sempre crederci. Bisogna credere e continuare a suonare, anche per una persona non vuol dire niente, può essere 100, 200, 1000, non importa. Guarda il diaframma. Esatto. Sto giusto leggendo adesso, che insomma. È vero, il diaframma. Abbiamo suonato insieme il diaframma. Cosa? Sì. A Udine 2 anni fa. Ti stringo la mano. Grandissimo. Sì, abbiamo suonato al Fabric Free Festival. Era un festival che iniziava nel tardo pomeriggio e proseguiva durante tutta la serata. E come headliner c'erano i Diaframma. Noi avevamo suonato durante il festival. E Diaframma è un gruppo storico, vero Sergio? Più che storico, è un'icona, possiamo dire questo. Fiumani, esatto. Fiumani è sempre 50 stato anni ormai da rocker. Sempre sul confine, non ha mai dato, mai ceduto un millimetro. Come Giorgio Canali. È stessa cosa. Gente che non ha mai ceduto a compromessi, è sempre andato avanti per la propria strada. Come voi, avete ceduto. Vabbè, per adesso, sai che non c'è mai che arrivi. Spero di arrivare anch'io a 50 anni così. Si sa mai. Beh, sicuramente ci arriverai anche musicalmente, sì. Si sa mai. Spero. Come no? Allora, abbiamo ancora tempo per fare quanti pezzi dal vivo? Ne abbiamo due ancora. Bene, adesso intanto ne suoniamo due uno. Giusti, direi, con i tempi. Sì. Ne suoniamo subito. Facciamo uno dietro l'altro? No, uno e dopo salutiamo. E facciamo uno subito adesso. Il soffitto da qui. Ok. ricorda. Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo. Dove è difficile trovarla o dove è stata esaurita da chi non se la meritava. Fino a qui tutto bene, ma siamo solo di passaggio. Aspettiamo invano un momento, anche se lungo solo un secondo. Complimenti per l'ugola. Esatto, mamma mia. Scatenato, scatenato. Mamma mia. Hai tenuto la nota lunghissima, sei stato bravissimo. Ci ho provato. Sei provato. E fuma. E fuma. Sigaretta elettronica. Ah sì. No, veramente. Non si può dire. Siete stati bravissimi, veramente. incredibili. Tanta forza, tanta energia, assolutamente. Non vi siete tirati indietro, mi pare giusto. No. Il live si chiama live per quello. Infatti, sì, sì. Adesso, sì, anche se in una radio è sempre un live alla fine. Ma certo, ancora meglio, è più difficile secondo me suonare in una radio, molto più difficile. Sì, siamo alla fine non è né un live stanza, né una prova. Esatto, una cosa... dimmi Enrico. Ce ne siamo accorti infatti. Adesso facciamo una cosa molto semplice, ripetiamo il titolo dell'album, dove si può trovare, dove, cosa, come, esattamente, i concerti, tutto quanto. Vai. Allora, beh, intanto possiamo suddividerci a sezioni. I nostri contatti sono ovviamente Facebook, MySpace, Reverb Nation, Twitter, YouTube, chi più ne ha più ne metta. È possibile trovare il disco, appunto, che si chiama Perversi Soli, in tutti i negozi sostanzialmente. Distribuzione, che distribuzione? Distribuzione Venus. Venus, quindi è abbastanza semplice. No, dici? Si trova, è semplice. E poi su iTunes potete comprarlo su Amazon, su Spotify, su Last.fm, insomma, ci sono tanti. Esatto. Basta cliccare Nova Lisi per Versi Soli e troverete, insomma, si trova, sì, oppure sì. Venite al nostro concerto e non ce ne sono altri. E poi le date più vicine? Date ne abbiamo una venerdì prossimo, venerdì 15 al Piper di Fontana Fredda, vicino a Pordenone. E poi, per il momento basta. E poi si vedrà. Per il momento basta. Ci chiudiamo in sala e componiamo. Esatto. Sì. Non fanno liscio al Piper. Facevano anni 60. Una volta, sì. Sì, sì. Infatti ha mantenuto il mood molto retro, però adesso si è trasformato in questa sala con concerti molto bella. Uh-huh. Facevano liscio e c'erano anche le donnine, sì. Interessanti, insomma. Un bel cambio. Sì. Insomma, il liscio, che io sappia, ha una bella nicchia. hanno avuto coraggio, dai. Sì. E c'è anche la radio. Sì, Radio Piper. Sì, infatti. Ci disturba. È vero, ma vabbè, basta, chiuso. Sì. Ok, abbiamo finito questa bella cavalcata con i Nova Lisi. Noi siamo stati molto soddisfatti di avervi ospitato. Anche per noi. Noi siamo stati molto contenti. Anche noi. Ci sarà un prossimo, visto che avete già dei pezzi pronti. Prossimo album. Perché no? Lo preparate qua, lo preparate e poi lo fate suonare. Certo, a presentare volentieri. Dal vivo, in anteprima, possiamo dire questo. Perché no? Sarà fatto. Ci ricorderemo. Grazie a Sergio Bortolami, è stato preziosissimo per far mandare avanti la baracca, come si dice. Grazie Sergio. Grazie Sergio. E grazie anche a te Maurizio. Grazie a voi. E domani chi c'è? Domani è Agostino con una band. Una band che è arrivata all'ultimo secondo, adesso non me la ricordo. Però nel sito nostro trovate tutto quanto. Domani sera Agostino, che condurrà la trasmissione dalle 21 alle... in magnetofono? In magnetofono, esatto. Dalle 21 alle 22.30 ci sarò ancora io come supporto. Sei sempre qua. Sempre qua. Okay. Buonanotte a tutti e grazie. Con cosa, ragazzi, terminiamo? Terminiamo con AM, che è il singolo. Che è il vostro singolo, esatto. Grazie. Buonanotte a tutti. Notte a tutti. Ciao. Svanisca il suo effetto. Forse come le